Ma matrona che è? Ma matrona dov'è? Ma matrona che fa? Ma matrona che dice? Ogni giovedì dalle 12 alle 13. Ma matrona, ma matrona. Musica, parole, racconti, favole. It's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with eyes. Buongiorno a tutti e tutte, questa è la quinta puntata di Mamatrona, come ogni giovedì dalle 12 all'una, oggi un po' in ritardo, sono già le 12:25. Quest'oggi parleremo di cibo, di come la musica molte volte si è ispirata al cibo, ma non solo la musica, anche l'arte, anche il cinema e tanti altri aspetti. Iniziamo subito, abbiamo già ascoltato Soul Kitchen The Doors e adesso un gruppo emergente, Pan del Diavolo, con la canzone che prende proprio il nome del gruppo, Pan del Diavolo. I know I have to go. Mattina mi sono alzato, tachicardia e sangue dal naso. Hai visto un uomo che moriva per amore? Ne conosco uno che muore per piacere. Diablo, señor. Avete visto, ho sentito parlare del diavolo? Ieri notte, come un lupo mannaro, la luna piena mi ha trasformato. Cerca di sangue e galline nel pollaio, ma questo dolce è più buono e mi ha saziato. Prossima canzone è More di Balanco. L'esperienza di Balanco inizia a Bari nel 95 grazie all'incontro tra il bassista Davide Penta e il pianista Pippo Lombardo, entrambi compositori ed amanti del jazz. Ben presto il trio comunque si unisce alla vocalista Mariella Carbonara e in seguito avranno varie collaborazioni con altre band. Hanno sviluppato anche il filone delle colonne sonore, soprattutto insomma dell'Italian Beat. E, attualmente Balanco è guidato da Davide Penta e Mariella Carbonara e riprendono anche molti motivi degli anni 50 e gli anni 70. E insomma rappresentano quella che è la nuova cocktail generation, che si snoda tra i suoni di Hammond e languide chitarre, tra bossa e psychedelic beat, con forti implicazioni jazz. E adesso a voi More. E questa è Soul Food di Frankie Say and Soul Riders. Adesso una breve citazione da un testo di Isabella Allende, Afrodita, che appunto parla di afrodisiaci e altre ricette, che è un testo dedicato agli amanti che giocano, agli uomini spaventati e alle donne malinconiche, quindi non potevamo non citare. La maggior parte delle persone, per ragioni pratiche, mangia con le mani. L'invenzione delle posate è relativamente recente e quella delle ferre buone maniere a tavola lo è ancora di più. Entrambe sono legate a una cultura che si rapporta con il mondo attraverso la vista e che rivela una strana diffidenza nei confronti degli altri quattro sensi, soprattutto del tatto. Tastare il cibo collega il tatto al piacere primario di soddisfare l'appetito. Mangiare con le mani è un modo di cogliere l'anima del cibo prima di consumarlo. Mi piace fare biscotti, sentire con le dita la morbidezza della farina, palpare la ruvida consistenza dello zucchero, quella scivolosa del burro e dell'uovo, amalgamare la pasta, tirarla, tagliarla. Godo quando mi accingo alla paziente incombenza di lavare le fragole o champignon, spremere un limone o affondare il coltello nella ferma consistenza di una mela. Come le liste dei peccati inducono alla trasgressione, anche le costrizioni imposte a tavola possono avere un effetto eccitante. La formalità ha una componente erotica. Le mani rilevano le nostre intenzioni, accarezzano, consolano, puniscono, lavorano. Una buona mano nel preparare una salsa equivale a una mano esperta nel fare massaggi. È un attributo prezioso e raro. Le salse sensuali, quelle che l'amante custodisce in segreto insieme ai tocchi più intimi e arditi, richiedono fantasia. E dopo Soul Food sentiamo Ornella Vanoni con Rossetto e Cioccolato. Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. Quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta e nella stanza il cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco poco. Si fa così e tutto apparecchiato per il cuore, per il palato. succede sempre. Ci vuol fortuna perché funzioni, i brividi alla schiena e gli ingredienti buoni. È quasi fatta zucchera a velo, la gola è soddisfatta e nella stanza il cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco poco. Si fa così e tutto appare chiaro. Ora sentiremo altri due pezzi che si ispirano a dei piatti. Il primo è Jambalaya, cantata da Fats Domino, e racconta di questo piatto di riso con pesce tipico della Louisiana che si mangia durante una festa che si fa sul fiume. E poi ascolteremo un'altra canzone, Crawfish, che anch'essa fa parte proprio di questa tradizione della Louisiana e appunto di questo piatto sempre col pesce tipico di quella parte della America. E quello che si nota in tutte e due le canzoni è sia spiegare appunto com'è fatto il piatto, ma anche la tradizione e quindi il momento in cui si mangia. Quindi ascolteremo in ordine Fats Domino con Jambalaya e poi Crawfish. Goodbye Joe, mi gargo, mio maio, mi gargo. Hero down Dubai, my Ivan, sweetest one, me or Maya. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, feel it gumbo. Cause tonight I'm gonna see my machete mio. Pick it tall, feel through jaw, and be gill. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Machete mio. Pick it tall, feel through jaw, and be gill. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. E questa è dedicata a chi mi ha fatto conoscere Fats Domino. Last night there was no moon, but the stars were bright. Put a big long hook on a big long pole, and I pulled Mr. Crawfish out of his hole. Crawfish, crawfish. kitchen ready to cook. Crawfish in your hand, he's gonna look good in your frying pan. If you fry him crisp or you boil him right, he'll be sweeter than sugar when you really bite. La prossima canzone si chiama Moss Bush dei Fischer Pooner. I Fischer Pooner sono un duo electro clash fondato nel 98 a New York. Il nome deriva direttamente dai cognomi dei componenti, Warren Fischer e Casey Spooner. La loro musica è caratterizzata da palesi tendenze retro electropop, richiamando un po' i Depeche Mode, con un moderno approccio alla musica dance. Ecco a voi Moss Bush. Il momento ricette da ogni dove. Allora, in questa prima manche vedremo una ricetta toscana contro una napoletana che vive a Roma, che fa ricette australiane. Nuvoga così. Allora, sentiamo la prima. Allora, ciao, adesso io vi dirò come si fa la torta di riso, che è un dolce tipico toscano. E gli ingredienti sono 18 uova, 6 etti di zucchero, 2 etti di riso e 1,5 litri di latte. Per iniziare bisogna prendere il giallo delle 18 uova, mescolarlo con lo zucchero e nel frattempo fare bollire il riso. Dopodiché, quando il riso è pronto, metterlo a raffreddare, se così si può dire, e nel frattempo spalmare il giallo delle uova in una teglia che prima era stata unta da 20 grammi di burro. Dopodiché prendere il riso freddo, metterlo sopra lo spalmato di uova, se così si può dire, e infine versare sopra il litro e mezzo di latte. Dopodiché mettere in forno per 3 ore a 200 gradi. E basta. Adesso vediamo. Ma poi voi voterete la migliore? Sì. Allora, la mia invece è semplicissima, me l'ha insegnata Spencer dall'Australia. Hello. Eccolo qui. Allora, prendete un bicchiere di latte, un bicchiere di farina e un uovo. Mischiate quest'uovo col bicchiere di latte e il bicchiere di farina, ci mettete un po' di lievito e la pasta è fatta. La mettete su una padella bollente, dentro ci potete mettere pezzettini di banana o di cioccolato, lasciate cuocere e basta. Questa è la mia ricetta, un poco australiana, un poco napoletana, un poco romana. Chi ha vinto? Put on the lid. Mammy's gonna make it some shot. Well, Mammy, can you baby love the dark and shot? Mammy's can you baby love the dark and red? Volevo dire che mi sono scordato che questa ricetta me l'ha detta mia madre, che ha detto di salutarvi tutti. Ciao, sono Marinella da Matera. Secondo me ha vinto quella col riso e la farina. I feel my pockets really short and red. I went to the corner, little stood on my head, and there I stood and ate my darling bread. Ah, baby, did you really love the darling shot? Famous, did you really love the darling bread? Well, baby, did you really love the darling shot? Famous, did you really love the darling bread? I'm pulling on the spit, I'm pulling on the lid. Mammy's gonna make some darling bread. Yeah, and that thing all. E adesso la seconda manche, vedremo Messico contro Francia. Vai Messico. Saludos a todos, yo me llamo Martín y la receta que tengo para ustedes hoy son los tacos mexicanos, que son una cosa muy buena y también muy fácil de preparar. Básicamente los tacos mexicanos son tortillas fritas con algo de carne y otras cosas adentro. Y esto es algo importante de subrayar, porque una amiga mía me preguntó cuál era la diferencia entre los burritos y los tacos, ¿no? Y la diferencia esencial es que en los tacos las tortillas tienen que estar fritas, ¿no? En los burritos no. Y las tortillas de los tacos pueden estar hechas o de maíz o de harina, ¿no? Yo recomiendo las de maíz, ¿ok? Así que o pueden comprar las tortillas de maíz y freírlas primero, o también pueden ir al Castroni, la tienda internacional aquí en Roma, y pueden comprar los tacos ya fritos que están como crujientes, ¿no? Están duros, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es comprar carne molida, ¿no? Carne molida, y cocinarla con cominos, sal, pimiento y ajo, ¿no? Esta es la primera cosa, ¿no? Luego, después tienen que poner toda la carne, yo diría 2 o 3 cucharadas dentro de cada tortilla, ¿no? Y poner las tortillas con la carne dentro del horno, ¿no? Déjenlas ahí, qué sé yo, 10 minutos a 200 grados. Lo importante aquí es calentarlos, no hay que quemarlos, ¿eh? Así que, por favor, atención. Y luego, sáquenlos del horno y pueden poner lo que quieran dentro. Normalmente, algo de tomate, ensalada y una salsa. Normalmente la salsa tiene que estar hecha de chile picante, ¿no? Yo sé que los italianos aquí no comen mucha comida picante, pero es importante que la salsa esté picante. Y algo también de queso. Yo recomendaría un queso delicado. De los quesos italianos podría ser o asiago o auricchio, ¿no? Así que, nada, espero que les guste. Et ora quella francese. Bonjour, moi je vais vous proposer une recette très simple aussi, c'est celle de la tapenade, idéale pour les apéritifs. Alors il vous faut 250 g d'olive noire, 300 g d'olive verte, 2 cuillères à café de câpre, une gousse d'ail, 200 g d'anchois. Vous mixez le tout et vous rajoutez un petit peu d'huile d'olive à vue. Et voilà, votre tapenade est prête et parfait pour l'été ou le printemps. Uè, sono Gennara da Napoli, volevo dire che secondo a me vince lo spagnolo, che tiene veramente una voce sexy. Ti posso conoscere? Into the file. Anything you say is gonna call you liar. Go downtown now, walk around the main cause of said is gonna put me down you. Ciao, sono Marinella da Matera e a me mi piace un po' quella francese, così mi piace. Ciao par condicio, ciao a Chate par condicio. Anything you say is gonna call you liar. E un grazie speciale ai cuochi e le cuoche di quest'oggi. Un saluto. Hello. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Dopo aver parlato di cibo, possiamo chiaramente parlare anche di bevande e partiamo con Fred Buscaglione, Whisky Facile, a seguire Godzilla le tre bambine con i baffi, a chi non beve birra Dio neghi anche l'acqua. Non pensi all'avvenire, ma chi te lo fa fare? Ma non sapete chi sono? No. Non sapete chi sono? No. Non sapete chi sono? No. Sono Freddy, dal whisky facile, son criticabile, ma son fatto così. Non credete, non sono un debole, m'han fatto abile e la guerra finì. Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere. Perdonate se ho il whisky facile, son sempre amabile, forse bevo così. Ciao, Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Per stare bene io bevo alla mattina la nitroglicerina. Perdonate se ho il whisky facile, son sempre amabile, forse bevo così, sì sì ri, sì ri. Non mi correggo, no, non mi tentate, altre persone si son provate, scusate tanto se ho il whisky facile. Continuiamo sempre con le bevande, ascoltiamo all'1.35 di Vinicio Capossela, che prende il nome proprio da uno dei primi album di Vinicio. Un'altra volta bionda, la serata sta finendo e servi la mia birra dietro il bar. Negroni, whisky, coco, un campanino con la soda e il ghiaccio, il figo, il rusco, c'è da cambiare pure il fusto. E il cliente già servito e la cassa ha registrato l'ultimo drink all'avvocato. Ma se passasse così in fretta come ora che è finita questa serata maledetta, per 50.000 lire un altro giorno da finire tra negroni, whisky, trucco, un arghile con il tabacco, qualche indizio nel cappotto per finire sotto il letto, ma ti ricordi che hai servito dietro il bar? Scime, Bacardi, Jamaica, Rum, White Lady, Max Bean, Tequila, Boom Boom, Charenton, Fuller's Bourbon. Sono state storie interessanti di risate in mezzo ai denti di amori messi sotto spirito affogato, di vecchi camionisti un po' rivisti, un po' alcolisti, con la moglie lasciata a casa ad ingrassare. Avventurieri di frontiera che non sanno passare il sabato sera senza finire ad ubriacarsi dentro un bar. Che strana razza e poi il cliente, c'è quello bello intelligente, c'è il casinaro l'invadente. C'è chi ascolta trasognato, c'è chi urla e sta sbracato, c'è chi la donna se l'inturta, c'è chi gli fa la mano morta. Ma il cliente più divino, il più richiesto ed invitante, quello che offre, paga tutti e fa il brillante. Scime, Bacardi, Jamaica, Rum, White Lady, Backspeed, Tequila, Boom Boom, Dry Gin, Charenton, Puros, Bourbon. We'll be right back. stati tristi, sempre afflitti dal denaro perché la roba costa caro, ma l'arte cosa sacra e seria da salvare. Per 100 sacchi alla serata facciamo una vita sregolata, ma il grande mito ci ha fregato che sei un eroe se sei suonato. E per ultima la strofa più dolente, quella hai messo le sercette dietro il banco nell'ufficio intellettuale, ben vestito, lui guadagna sempre poco, tasse, IVA e forniture, mamma mia quante paure, con gli incassi son dolori per pagare i suonatori, pagare i suonatori, scime, Bacardi, Jamaica, boom, white leather, black speed, tequila, boom, boom, tragedy, Charenton, for a smooth bomb. Adesso passiamo ai dolci con Losing the Sky with Diamond. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Eat marshmallows. Radio on the Rose on translation. Everyone marshmallow pie. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. Persone come cavalli a dondolo mangiano torte di marshmallow. Ognuno sorride mentre si apre un varco tra i fiori che crescono incredibilmente alti. con Radio Rossa in Translation con Motorhead, con i Motorhead. Perché insomma abbiamo pensato, abbiamo fatto il primo, il secondo, il dolce, il dessert, il caffè. Ma se uno proprio non ha fame, cosa fa allora? I Motorhead propongono Eat the Rich, mangia il ricco. Radio Rossa in Translation. Dicono che la musica è il cibo dell'amore. Vediamo se siete abbastanza affamati. Dai piccola, mangia il ricco. Dai baby, mangia il ricco. Sit in qui in ristorante. Dite al cameriere quello che volete e che la carne volete. Baby, mangia il ricco. Continuiamo con le metafore con My Boy Lollipop. We'll be right back. la puntata di Mamma Trona volge quasi al termine. Prima però volevamo fare due considerazioni rispetto al 13. Il 13 febbraio in tutte le città ci sarà una manifestazione di donne. Quello che ci sentiamo di dire è che, leggendo anche gli appelli di Concilia De Gregorio e altre donne di alcuni partiti politici, non ci piace tanto la stigmatizzazione delle donne, nel senso non vogliamo che le donne siano classificate in quanto madri, mogli o prostitute o qualsiasi altra cosa. Non vogliamo entrare nel binomio di sante o puttane e non ci sentiamo in quanto non prostitute migliori di altre. Quindi quello che vorremmo è anche una piazza in cui non c'è l'elenco rispetto alla dignità. Vorremmo una piazza di donne per le donne che scendono in piazza anche contro la violenza che tutti i giorni miete tantissime vittime, femminicidi all'interno delle mura domestiche che appunto accadono tutti i giorni in Italia. Vorremmo una manifestazione di donne per una libertà sessuale vera e che non è eteronomata e che non ci fa vivere, come dicevo prima, appunto nel binomio tra sante o puttane. Quello che è stato il moralismo di questi giorni, un moralismo purtroppo anche di sinistra, che pur di andare contro il presidente Berlusconi, cosa che nel senso va bene e facciamo anche noi, ma anche per altri motivi. In questi anni abbiamo visto dal punto di vista sia governativo dell'Italia, del paese intero, ma anche a livello regionale, quali sono state le politiche di sinistra e di destra contro una libertà delle donne, la libertà di scelta rispetto ad esempio alla legge 40, oppure le dimissioni in bianco, oppure possiamo parlare anche dell'ostracismo che c'è stato rispetto alla RU486, per non parlare di questi ultimi mesi la proposta di legge d'Arzia. Insomma, di argomenti ce ne sono tante, le donne in piazza scendono e sono sempre prescese, arrabbiate, per cui però scendiamo arrabbiate tutte insieme e con però dei valori che sono quelli dell'antifascismo, dell'antirazzismo e dell'antisessismo, e non ci piace neanche la trasversalità, per cui vanno bene tutte, anche magari di Future Libertà o ex fasciste che scendono in piazza in nome di non si sa bene cosa. Vorrei sottolineare anche come il 13 a Piazza del Popolo ci riporti in quella piazza e comunque ha visto gli scontri del 14, che comunque esprimevano una rabbia, una sfiducia al Premier, che secondo me può solo che essere ribadita dalle donne che scenderanno in piazza e che spero che non accoglieranno, diciamo, quegli appelli come appunto come quelle tra virgolette buone che Concita De Gregorio vuole presentare. La stessa Concita che alcuni, mi pare un anno fa, mostrava, faceva la pubblicità al giornale che dirige che quindi sottolineava ancora come la mercificazione del corpo delle donne potesse essere appunto uno strumento per fare pubblicità. E questo chiaramente va rigettato. Ci sono state moltissime analisi. Vi volevo sottolineare quella di Pia Covre, che comunque sottolinea appunto come la tutela delle prostitute non sia assolutamente messa in conto in un paese che è basato alla fine sulla prostituzione e su questo tipo di scambi, diciamo. e in cui si sottolinea comunque un potere che è sgretolato ormai, in cui gli uffici e le cariche sono dati solo per favori e non solo alle soubrette, perché lo stesso Alemanno ha fatto le stesse cose. Questa è Lola de Kinks, che comunque sottolinea una costruzione della mascolinità un po', diciamo, sui generis, in quanto avviene proprio con un trans. Volevo dire qualche altra cosa sul 13, riguardo insomma a questa criminalizzazione che è stata effettuata dalla televisione, dai media, dicendo peste e corna sulle prostitute, su queste piccole donne che insomma vendono il proprio corpo. È questo che dispiace molto a noi, il fatto che le prostitute diventino un capro espiatorio, la peggiore feccia dell'umanità. E, il discorso che prima di una criminalizzazione della prostituzione, della prostituta in sé, c'è proprio una sorta di disumanizzazione, perché queste donne, prima di essere persone, esseri umani, sono prostitute, quindi prima prostitute e poi esseri umani. E noi scendiamo in piazza anche per sostenere queste sex workers, magari avendo un vestito rosso, qualcosa che richiami il rosso, perché noi non ci stiamo a questa moralizzazione, non ci stiamo a questa rappresentazione falsa e ipocrita della donna. E questa è Peanut Butter dei Matherons. Tra le analisi che sono state fatte in questi giorni sulla situazione, diciamo, italiana del Bunga Bunga e Berlusconi and Company, volevo leggere un passo da un blog, Fastidio, che sta su NoBlogs, che sottolinea, cioè, una buona analisi comunque, e si conclude con una conclusione che forse dovremmo sempre tenere a mente. Eppure quello che ha fatto Capolino di Sottecchi in questi giorni è un vocabolo che non si sentiva da anni. Verità. Stupendo. Forse a differenza di tutti gli altri termini cui si può cambiare significato, quello di verità è il più assoluto, il più difficile da manipolare. Rimane immutato nel tempo. Alla parola verità scattano visioni mistiche, con luce sparata da dietro e Cristi crocifissi. Ecco perché inizialmente ha colpito così tanto l'uso di una simile parola tra le labbra di Berlusconi e della Pasaran Santanchè. E sono convinto che l'abbiano pronunciata con la V maiuscola. Verità è il supporto di tutte le grandi narrazioni storiche occidentali. Non esiste rivoluzione che non sia stata fatta in nome di una verità. Il giacobinismo aveva la sua verità, e così il cristianesimo, il fascismo, il socialismo, il sionismo, l'islamismo transista. La verità è un agente di cambiamento. Attorno alla verità si costruisce un nuovo sistema di valori che vengono applicati e difesi attraverso nuove pratiche politiche. Chi ha usato questo termine in questi giorni l'ha fatto credendoci sul serio. Il berlusconismo è davvero una nuova verità che sta permeando le coscienze dei telespettatori. Ha un nuovo sistema di valori, una nuova prassi. Non servirà a cambiare canale, non servirà nemmeno l'indignazione se non si ha una verità da contrapporre. Una diversa egemonia culturale, una diversa semantica, diversi modelli estetico-etici. Beans and cornbread. Beans and cornbread. Beans and cornbread. Beans and cornbread had a fight. Beans, beans knocked cornbread out of sight. Beans. Cornbread said, now that's all right. Beans. Meet me on the corner tomorrow night. I'll be ready. I'll be ready tomorrow night. E questa è? Louis Jordan and the Timpani Five, Beans and Cornbread. I'll be ready tomorrow night. Beans. That's what Beans said to cornbread. I'll be ready tomorrow night. Beans told cornbread, you ain't straight. Beans. You better wake up or I'll gas you gate. Beans. Been in this pot since 2:30. Beans. Swelling and puffing and almost due. I'll be ready tomorrow night. Beans. That's what Beans told cornbread. Beans. Always get mad at me. Beans. I ain't mad at you. Cornbread by the toe. Beans. Beans said, cornbread, let me go. Beans. Cornbread said, I'll lay you low. Beans. I'm gonna fight you so and so. Meet me on the corner. Meet me on the corner tomorrow night. That's what Beans said, cornbread. You're so bad, you always wanna fight. Meet me on the corner tomorrow night. I'm gonna beat the devil out of you. On the head. Beans. Cornbread said, I'm almost dead. Beans. Beans told cornbread, get up, man. Beans. You know that we go hand in hand. Beans and cornbread. Mamatrona, la puntata di Mamatrona sta quasi per finire. Vi diamo appuntamento al prossimo giovedì dalle 12 all'1. La prossima puntata sarà surprise. Insomma, vi auguriamo buon pranzo e buona giornata a tutti con Spaghetti e Detroit di Fred Bongusto. Tazzina di caffè a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a Detroit. Certo, potevamo mettere anche pasta all'ova o pappa al pomodoro, oppure popcorn e patatine, oppure tante altre. Per quanto fagioli degli Schiantos non era male. Insomma, erano tantissime le canzoni che potevamo mettere, ma abbiamo scelto proprio queste. Ho fatto le pazzie per te, ricordo. Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi a Detroit. Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena. Detroit. Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Oggi al Campidoglio ci sarà un presidio per la situazione dei Rom, che comunque dopo la morte di quattro bambine nei giorni scorsi, invitiamo insomma ad andarci, visto che l'unica risposta non può essere una messa organizzata alla presenza di Alemanno, che è il primo a essere fautore della situazione Rom a Roma. I'm a Cadillac tramp, the end of his road. A swamping rat who's sitting on gold, yeah baby. I'm a guitar gangster without a tune. I'm a baseball bat that's waiting to swing. Your lone shark friend with the broken knees, yeah baby. I'm a penthouse pauper with nothing to do. Into deep with the slick back hair and the silver teeth, yeah baby. I'm a vagabond king with a stolen crown. I'm a jailhouse poet, a genius of